sbarco. A nome di France membro Sky Team, vi auguriamo un piacevole viaggio. Le famiglie con bebè sono invitate a preimbarcare all'uscita 11. I passeggeri Sky Priority e Sky Team Elite sono invitati ad imbarcare ora per accesso a Priority Boarding. In grazie ai passeggeri che viaggiano in class economy di aspettare ancora qualche minuto. Madame, Monsieur, bonjour, le vol Air France 117, destination de Paris Charles de Gaulle, prêt pour l'embarquement. Pour des raisons de sûreté, veuillez vous présenter un document d'identité ouvert à la page photo ou contrôle à votre stessa volta. Au nom de France, membre de Sky Team, nous vous souhaitons un agréable voyage. Les familles, mettez-vous.